Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Anche nello spazio si deve tirare un po' la cinghia, lo sentirete in questa puntata della quale ora ascoltiamo insieme i titoli. Un'indagine rivela che le automobili hanno una faccia. I fari sono gli occhi, il parabrezza la fronte, il paraurti il sorriso. Questa è anche la conseguenza della personificazione degli oggetti nei cartoon. Un grande matematico italiano poco conosciuto. Si chiamava Bruno De Finetti e diede un contributo fondamentale alle teorie della probabilità. Ora è protagonista di uno spettacolo teatrale. Dalle nanotecnologie al suono digitale, passando per il viaggio nel sistema periodico. Chiavi di lettura, la collana divulgativa della Zanichelli dedicata agli argomenti scientifici. Piccoli libri che costano poco. Piante sotto vetro. È la tecnica della micropropagazione che serve a far crescere le piante miniaturizzate. In Italia sono 25 milioni quelle prodotte in questo modo. Come fare ricerca in Italia e come dovrebbe essere l'università. Il nuovo libro di Walter Tocci racconta quello che ancora non si riesce a fare. Più robot e meno uomini nello spazio. È la nuova strategia emersa dall'ultima ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea. Oggi all'inizio di puntata mi collego con Paola Rebusco via Skype. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Sei in partenza per il Cile, dove andrai a vedere i telescopi di cui abbiamo parlato per il film di James Bond, ma di questo parleremo un'altra volta, mentre invece adesso tu hai approfondito una notizia che ho visto anch'io, ci devi parlare di facce d'automobili. Eh sì, è uno studio molto simpatico, pubblicato questo mese sulla rivista Human Nature, quindi una rivista specializzata, e hanno concluso che le automobili hanno dei tratti caratteriali che sono associati alla loro struttura, alla loro geometria. Tratti caratteriali proprio espressivi, facciali. Espressivi, facciali, sì. Come se fossero i tratti di un viso, più dolce, più aggressivo. Allora, questa è una ricerca di psicologia sperimentale, avranno formato un gruppo, di un campione, insomma, per esaminarlo. Esatto. Sì, due ricercatori, Dennis Slice dell'Università della Florida e Sonja Windhagen dell'Università di Vienna, hanno chiesto a 40 persone di guardare delle immagini tridimensionali ad alta risoluzione di automobili. E allora, come prima domanda, dovevano vedere se associavano o meno all'automobile un viso umano o animale. Ho capito. Ad esempio i fanali sono gli occhi, lo stemma, il naso e così via. C'è anche il paraurti che può essere il sorriso, immagino, che ne esatto. So. E qui cos'è venuto fuori? È venuto fuori che in un terzo dei partecipanti all'esperimento associava effettivamente un viso a queste automobili. Sì. Ma lo studio non si è fermato qui, perché oltre a dire se riconoscevano una qualche tratto facciale nell'automobile, e i partecipanti all'esperimento dovevano anche votare 19 aspetti. Cioè, che tipo di espressione? Esatto, che tipo di espressione. Dovevano votare se quella determinata automobile aveva un'aria di dominio o di sottomissione, un'espressione matura o infantile, aggressiva, femminile, maschile, tutta una serie di aspetti caratteriali. Sì, ecco, io qui ho visto un po' la notizia, mi pare che ci sia stato un forte concordare fra le persone che hanno partecipato. Il 96% delle persone si è trovata d'accordo nell'individuare le varie espressività facciali delle automobili. Sì, per esempio le macchine con un cofano più lungo sono identificate con dei caratteri di potere, mentre le macchine che hanno le parti laterali leggermente più alte rispetto a quelle centrali sono delle macchine più femminili, sono sorridenti, più tranquille, meno aggressive. Sì, esatto. Ma poi hanno anche chiesto una valutazione sulle preferenze, insomma. Sì, ed è saltato fuori che siamo tutti un po' dei guerrieri, ci piacciono le macchine un po' arroganti, aggressive, potenti. Magari poi non le compriamo, però a livello di gusto estetico, legato appunto a queste espressioni, c'è questa forte preferenza. Senti Paolo, questo gruppo di ricerca ha fatto anche un'ipotesi sul perché abbiamo questa tendenza a riconoscere facce? In realtà sì, pensano che si tratti di un'evoluzione biologica, per cui i nostri cervelli, per un periodo lunghissimo durante tutta la preistoria, si sono sviluppati in modo da riconoscere dei visi, in modo da capire se c'era un pericolo o meno. Per esempio, capire se c'era una tigre nascosta dietro un cespuglio, O anche degli umani. oppure sì, degli umani, e capire se il viso era un viso amico oppure aveva un'espressione aggressiva. E qui c'è rimasta la traccia, Quindi adesso c'è questo. rimasta questa traccia, noi oggigiorno non abbiamo questa necessità così forte, però ad esempio a livello inconscio siamo un po' tentati a vedere facce ovunque, non solo nelle automobili, anche nelle nuvole, nelle rocce. Sì, in quelle cose che si prestano ad avere Esatto, sì, le un'espressività. automobili si prestano. Però, senti, le automobili sono anche guidate da qualcuno. Sì, effettivamente questi ricercatori stanno anche studiando se la percezione data dall'automobile si trasferisce anche alla persona che la guida. Per cui se un'automobile ci dà una sensazione di aggressività o di simpatia, e se estendiamo questo giudizio anche alla persona che la sta guidando. Grazie Paola, buon lavoro. Ciao, ci sentiamo dal Cile! Ora vi parlo di Bruno De Finetti, grande matematico italiano, tanto grande quanto pochissimo conosciuto. A lui una compagnia, di cui adesso vi dirò, dedica uno spettacolo teatrale. Sentiamo da questo spettacolo un brevissimo estratto, sentite. Un'osservazione banale e profonda di Émile Borel rende ovvio che non è il carattere incerto di un fatto che rende legittimo parlare della sua probabilità, ma la nostra incertezza riguardo a quel fatto. Si può scommettere testa o croce, egli dice, anche quando la moneta è già stata lanciata, è nell'aria e il suo moto è perfettamente determinato. Ed anche, perché no, quando la moneta è già caduta a terra ed è ferma, sotto la condizione di non sapere quale faccia mostri. La voce che avete sentito è quella di Gabriele Arganzi, che è regista e attore di questo spettacolo. Qui con me invece questa sera ho ospite Barbara Bonora, che è autrice dei testi e ha fatto la ricerca documentale. Intanto lo spettacolo, Bonora, qual è, che titolo ha? Probabilmente De Finetti. Probabilmente De Finetti, e qui c'è già un po' il senso di questa storia, perché De Finetti ha fatto tante cose in matematica, ma è stato particolarmente importante per quanto riguarda il calcolo delle probabilità. Bonora, abbiamo sentito un estratto da questa pièce teatrale. Perché? Perché lì c'è un po' condensata, no, la teoria di fondo di De Finetti. Sì, diciamo che in modo provocatorio De Finetti era uso dire la probabilità non esiste. Non esiste perché lui amava o preferiva usare l'aggettivo probabile oppure meglio ancora l'avverbio probabilmente. La probabilità in quanto probabilità interna alla natura, lui diceva impossibile pensare che la natura sia messa nelle condizioni dell'asino di Buridan. Il fatto è già deciso, l'evento è già deciso, siamo noi che ci troviamo nello stato di indecisione, quindi dover decidere la probabilità è uno stato psicologico. Mi viene in mente, se vuole, quest'altro esempio per capirci, quando noi, per esempio, dimentichiamo qualcosa, le chiavi tipicamente, che appaiono e scompaiono con un'assoluta periodicità all'interno della nostra vita, beh, noi non la pensiamo così, però è come se pensassimo che effettivamente sono le cose che si nascondono e che ricompaiono. In realtà le cose staranno sempre in un determinato posto, noi non ci ricordiamo dove le abbiamo messe. Nel calcolo delle probabilità, a un certo momento si è portati a pensare che sia insita nella natura la probabilità, mentre invece, come si sente in questo estratto, quando la moneta vola, insomma, si sa già da che parte dovrà finire, no? Certo. Senta, però, lo spettacolo ruota intorno anche a De Finetti come personaggio umano estremamente singolare. Sì, era un personaggio davvero singolare. Per esempio, era il 1950, lui stava a Trieste e si liberò una cattedra alla Facoltà di Economia e Commercio a Roma e lui decise di trasferirsi. La moglie, come dicevo, era di Roma e gli sembrò una buona occasione, solo che a Roma si coalizzò una sorta di fronte del no a De Finetti, al Triassino, e si pensò bene per impedire la sua venuta di mettere a concorso il posto. Sì, pensando che un ordinario non avrebbe mai accettato di fare un concorso, insomma, per una Certo. cattedra che doveva aspettargli. Ok. definiti usò la burocrazia contro di loro, decise di partecipare al concorso, mandò tutti i propri scritti, inviò questo ponderoso pacco e quando la cosa si seppe si fu una specie di rivoluzione, la commissione, in parte i membri della commissione si dimisero, un'altra parte fece muro, insomma si andò avanti per alcuni anni e alla fine vinse lui perché la cattedra fu sua. Ecco, vorrei sentire un altro estratto dallo spettacolo, dalle memorie testuali di un suo allievo di allora, di quegli anni, proprio relative al momento in cui lui, arrivando a Roma, si trova già da subito, non ha nemmeno iniziato a insegnare, a dover svolgere degli esami. E nel vostro spettacolo citate questo testo, che appunto non è recitato da un attore perché è il diario di una persona che non ha senso reciti. Sentiamo. Avanzò fra l'ossequio dei presenti e dubbi convenevoli di pragmatica, chiese accentuando l'ironia di quel sorriso. Posso interrogare qualcuno? E a seguire subito sentirei anche questo altro passaggio che riguarda un altro momento dell'esame. Proviamo a giocare. Venga con me. E mi condusse alla grande finestra spalancata sulla meravigliosa piazza Fontanella Borghese. Beh, insomma, Bonora, anche da qui viene fuori appunto lui che entra in aula e dice posso fare qualche domanda, oppure che durante l'esame porta la gente alla finestra. Sì, era anche uno straordinario inventore di neologismi, per esempio burofrenia, burosadismo, addoccaggine. L'addoccaggine da che cosa deriverebbe? La creazione di teoria ad hoc. Creazione di teoria ad hoc, probabilmente per lui significava quei casi in cui, come dire, si forzano le cose a tutti i costi per poter portare a casa un risultato. Allora, in conclusione, Barbara Bonora, ricordiamo lo spettacolo probabilmente De Finetti va in anteprima in una cittadina vicino a Bologna, 20 chilometri, a San Martino in Argine. Sì. Esatto. La sera del 18 prossimo? Del 18 dicembre, sì. La sera del 18 dicembre e poi dopo arriverà anche nelle città, in particolare voi lavorate anche come teatro per le scuole. Grazie Bonora e alla gente di spettacolo bisogna dire in bocca al lupo anche peggio, no? Buona serata. Buona serata. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Bene, mi viene da iniziare così, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, in un periodo in cui le marmellate che costano 1,30 euro vanno a ruba e quelle che costano 1,39 euro restano lì sullo scaffale, anche parlando di libri, secondo me è importante parlare di libri che costano veramente poco. Lisa Vozza e Federico Tiboni, sono stato troppo brutale per introdurvi o no? Noi del prezzo facciamo un argomento, sono libri proprio alla portata di tutti, non soltanto perché costano poco ma anche perché usano un linguaggio chiaro e semplice. Anche lei, Tibone, è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Adesso ci entriamo a parlare della collana, vi chiedo solo. Lisa Vozza e Federico Tibone sono i curatori della collana di cui stiamo per parlare. Sono libri intorno ai 9,80 euro, 10, ce n'è uno che va anche a 11, ma sono veramente di buon prezzo. Stiamo parlando della collana Chiavi di lettura di Zanichelli e in particolare parleremo degli ultimi 4 testi usciti. Sono testi di divulgazione di formato piccolo, intorno alle 200 pagine, ma che però in ognuno di questi temi che attraversano riescono a dare uno scenario abbastanza completo. Lisa Vozza, vogliamo incominciare per esempio da uno di questi titoli, Nel mondo di mezzo. Nel mondo di mezzo è un libro scritto da un autore inglese, Mark Ho, parla del moto browniano e di questo mondo degli oggetti che si muovono con il moto browniano e che sono molto eterogenei tra loro, possono essere un grano di polline, una molecola di plastica, un filamento di DNA. Stanno in questo universo che è a metà tra la scala subatomica degli elettroni dei quark e quella macroscopica della vita quotidiana e non stanno mai fermi. Se ne sono occupati Robert Brown, quello, il botanico scozzese che ha scoperto il moto browniano, ma anche fisici famosi come Clausius, Maxwell, Boltzmann e Einstein. Le acrobazie del mondo di mezzo sono oggi davvero al cuore di ricerche come quelle sulla biologia molecolare e le nanotecnologie. Forse se volessimo dare un'immagine del moto browniano è quello che per esempio quando vediamo i raggi di luce che entrano d'estate magari dalle persiane, vediamo quel pulviscolo che si muove ininterrottamente dentro questi fasci, ecco quello è un classico esempio È un universo estremamente pieno, no, di fenomeni. Esatto, estremamente pieno di fenomeni e pieno di molecole importanti per, proprio per la nostra vita. In tutti i sensi. Mm-hmm. Federico Tibone, mi pare che lei ci parla invece di qualcosa di completamente diverso, che è il mondo del suono digitale. Sì, perché uno dei libri che sono usciti quest'anno si intitola Rumore Bianco, è un'introduzione alla musica digitale, che è una musica che ci portiamo oggi tutti in tasca nelle chiavette USB o negli lettori MP3 e che ascoltiamo con estrema facilità, ma non solo, siamo tutti, specialmente i ragazzi, ormai in grado di produrre della musica di buona qualità usando gli strumenti digitali, se ne abbiamo la voglia, la pazienza e il talento, naturalmente. I due autori di questo libro sono Andrea Cremaschi, che è un giovane musicologo, e Francesco Giomi, un compositore, musicista e compositore, entrambi attivi tra i protagonisti in Italia della scena della musica elettronica, e hanno scritto questo saggio introduttivo che parte facendo la storia della musica, che ormai è lunga quasi un secolo, anzi più di un secolo, della musica prima elettrica, elettroacustica, e poi dopo l'invenzione dei transistor e dei circuiti integrati, via via sempre più elettronica e digitale. Raccontano come si creano oggi i suoni, come si modificano suoni naturali e come si fruisce in modo nuovo della musica, sia in senso colto, per esempio in teatro, sia nel contesto domestico, per esempio attraverso i sistemi di home theater, grazie agli sviluppi di queste tecnologie. Ritorno a lei, Voz. Tiro fuori un titolo di un paragrafo dal libro di cui lei ci sta per parlare, Canti, dialetti e tecniche di caccia, elementi culturali nei capodogli delle Galapagos. Sì, è una citazione dalle culture degli altri animali di Michelangelo Visconti. Michelangelo Visconti è un paleontologo, un giovane paleontologo, tra i massimi specialisti nello studio dell'evoluzione dei cetacei, anzi in questo momento è in Perù proprio a esaminare ossa di grandi balene, svolge le sue ricerche a Livorno. Nel libro ci racconta come gli animali sono capaci di scambiare informazioni e di trasmetterle da un individuo all'altro per via non genetica. Questi meccanismi di trasmissione della cultura sono quelli che danno luogo al fatto che appunto una balena apprenda un diverso dialetto sonoro da altri membri della sua specie. È successo in Australia, dove due megattere di un gruppo distante arrivano in un gruppo molto più popoloso e nel giro di pochi mesi tutte le megattere cantano, diciamo, il dialetto delle due intruse, proprio come una... C'è uno scambio culturale, sì, insomma. Sì, ma proprio come succede con una canzone nella hit parade, no? Esatto. E tra l'altro nel libro il lettore è anche invitato ad una riflessione sul concetto di cultura in generale. Tibone, il titolo Energia per l'astronave Terra è un'immagine forte e abbastanza precisa, effettivamente, no? Beh, è molto significativa perché questo libro parte da alcuni presupposti, uno dei quali è chiarirci bene le idee sul fatto che siamo sopra un'astronave con risorse finite e non possiamo scendere per fare benzina. Esatto. Per esempio finiamo la benzina. Per fortuna, a dire la verità, abbiamo una fonte di energia esterna all'astronave, che è il Sole, e su questa possiamo contare per tempi lunghi e possiamo approfittarne se ne saremo capaci. I due autori di questo libro sono Vincenzo Balzani, che è il principale chimico italiano, e Nicola Armaroli, che è un giovane ricercatore, anch'egli nel campo della chimica, della scienza dei materiali. Entrambi tra l'altro sono impegnati in uno degli studi più avanzati che si stiano facendo non solo in Italia ma nel mondo, che è quello sulla fotosintesi artificiale, vale a dire il tentativo di riprodurre con dei sistemi creati dall'uomo quello che le piante sanno fare da miliardi di anni, e meno male che lo sanno fare, perché la nostra vita dipende da quello. Certo. Il tema dell'energia è caldissimo, naturalmente, anche in questo periodo, e non per nulla questo libro, tra quelli usciti credo un mese e mezzo fa, è già esaurito, in sostanza sta andando in ristampa. Gli autori di questo libro partono dalle basi, cioè spiegano che cos'è l'energia, una cosa che è tutt'altro che banale da mettere a fuoco, e lo fanno in modo estremamente chiaro e semplice a mio avviso, e poi passano in disamina tutte le fonti di energia che esistono con un'ampia messa di dati, ridotti all'osso per chiarezza, ma che consentono a chi legge questo libro di farsi un'idea propria, autonoma, sul dibattito che è in corso sul futuro delle nostre fonti energetiche. Uno dei meriti di Armaroli e Balzani in questo libro e di parlare un linguaggio molto schietto, chiaro e vicino anche alla nostra quotidianità. Per esempio, una delle loro immagini che ho trovato molto felici è quella degli schiavi energetici, vale a dire, per farci mettere a fuoco quanto il nostro benessere nella nostra vita odierna dipende dalla disponibilità di energia che abbiamo, loro ci chiedono di immaginare che in passato soltanto chi disponeva di schiavi poteva vivere relativamente bene, e uno schiavo, una persona, un essere umano che lavora in modo continuativo per qualcun altro, produce una potenza di circa 50 watt in modo continuativo. Il che significa che, per esempio, quando facciamo andare la lavatrice, per tutto il periodo in cui dura il ciclo di lavaggio, un'ora, un'ora e mezza, abbiamo 15 schiavi energetici che stanno lavorando per noi in quel momento. E così via nelle altre applicazioni della nostra vita quotidiana. Sì, con delle immagini estremamente chiare. Bene, Lisa Voz e Federico Tibone, vi ringrazio. Ricordo la collana Chiavi di lettura della Zanichelli. I libri costano poco, insomma, può essere anche un'occasione questa per regalarne due a Natale. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, arrivederci. Pronti? Pronte? Perché sta arrivando il nostro quiz. Dunque, a proposito di risparmio energetico, ne abbiamo appena parlato. Allora, è pensabile che pedalando su una bicicletta si possa alimentare il funzionamento di un computer? Perché qui ci si potrebbe anche ingegnare con una cyclette, e questo è il punto. Bene, vediamo alle risposte. Prima, no, non è possibile, e vi spiegheremo perché, e quindi ci scriverete no. Sì, è possibile, e vi spiegheremo perché, e ci scriverete sì. Terza possibilità, sì, ma solo se è un computer portatile, e ci scriverete portatile. Dove scriverete? Bene, con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince è Nel mondo di mezzo, il moto browniano tra materia e vita di Mark Ho, delle edizioni Zanichelli, delle quali appunto abbiamo appena parlato. In collaborazione con IBS.it. 100 immagini che arrivano dalla ricerca astronomica, è una mostra che le raccoglie, la mostra è a Trieste, organizzata dalla SISA, la Scuola Internazionale di Studi Avanzati. Questa mostra si trova allo Science Center Immaginario Scientifico a Trieste. Appunto, sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovate nella sezione Guardare Insieme una conversazione con Paolo Salucci, astronomo e uno dei curatori della mostra. E insieme guardiamo un po' e commentiamo alcune di queste immagini che sono stupende. Sempre nel nostro sito trovate nella sezione News una notizia che appunto si intitola Ripreso in profondità un calamaro gigante. Nelle piattaforme petrolifere che estraggono petrolio in fondo al mare è da tempo previsto un monitoraggio costante con delle telecamere, delle installazioni che lavorano in profondità. In una di queste piattaforme della Shell nel Golfo del Messico, a un certo momento, nella ripresa delle videocamere, è apparso un calamaro gigante, uno di quegli esseri di profondità con un corpo di 2 metri e con dei tentacoli, in questo caso che raggiungono all'incirca i 15 metri. In questo breve filmato lo vedete fermo lì vicino alle installazioni della piattaforma. È arrivato sulle nostre scrivanie molto tempo dopo, ma nel dicembre del 1968 fece la sua prima apparizione. Di chi si tratta? Del mouse, allora, che proprio di questi giorni compie 40 anni. Ve ne parla Maurizio Melis. My office, I have a console like this. And there are 12 others that are computer supplies, and we try nowadays to do our daily work on here. So this characterizes the way I could sit here and look at a completely blank piece of paper. Chi parla? Beh, insomma, non proprio con l'enfasi di un oratore professionista, è Douglas Engelbart, fondatore assieme a 17 colleghi dell'Augmentation Research Center, un istituto in cui nella prima metà del Novecento si immaginava come vari tipi di informazioni potevano essere mostrate e manipolate su uno schermo. Siamo allo Stanford Research Institute ed è il 9 dicembre 1968, esattamente 40 anni fa. Ascoltiamo ancora per qualche secondo. If I make some mistakes, I can back up a little bit. Ecco, molti avranno riconosciuto il suono inconfondibile della tastiera di un computer, ma non è questo l'aggeggio che ci interessa. Piuttosto è quello che Engelbart controlla con la mano destra, il primo mouse della storia. O meglio, un oggetto quadrato in legno, grande come un cartone del latte da mezzo litro, con due rotelline sotto e un grosso bottone sopra. È il 1968, abbiamo detto, e l'inventore del mouse lo sta presentando a un pubblico di esperti del computer. Nel video si vede anche un altro strano aggeggio, simile alla tastiera di un pianoforte, ma con soli 5 o 6 tasti, che Engelbart controlla con la sinistra e di cui si è però persa la memoria, come chissà per quanti altri marchi ingegni elettronici. Per la verità, neanche al mouse andò molto meglio, almeno per i successivi 15 anni. Ci vuole infatti il talento visionario di Steve Jobs, il papà della Apple, per comprenderne e valorizzarne il potenziale. Jobs vide il mouse per la prima volta nel 1984 a una presentazione della Xerox, in una versione migliorata, più simile a quella moderna, e subito lo adottò per il suo nuovo personal computer Lisa, seguito a ruota, anzi forse è il caso di dire a rotellina, da IBM e Microsoft. C'è anche un piccolo giallo che riguarda il nome dell'oggetto. Della forma del topo, infatti, la prima versione, lo abbiamo detto, non aveva nulla. Mattone, semmai, sarebbe stato un termine più adatto. Pare, infatti, che mouse fosse l'acronimo di Manually Operated User Selection Equipment o qualcosa, insomma, di altrettanto noioso. Lasciateci dire che si tratta veramente di una spiegazione davvero poco affascinante per uno degli oggetti simbolo della nostra epoca. Tanto da essere all'origine di una malattia professionale, una tendinite detta sindrome da mouse, che viene a chi ne abusa. Certezze sull'origine del nome comunque non ce ne sono, perché lo stesso Engelbart, tuttora in vita, pare non sappia spiegarla. E il futuro? Beh, pare che per il mouse non sarà dei più rosei. Prima il mousepad, il rettangolino sensibile al tocco che compare ormai su qualunque portatile, poi il touchscreen nelle versioni più moderne che consentono di fare di tutto, ne minacciano il primato. Quest'ultimo, in particolare, il touchscreen, sembra destinato ad avere infine il sopravvento. Ma si sa, dove c'è un topo, spunta sempre un gatto, pronto a fargli la pelle. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso ascolterete Chiara Albicocco e al termine del suo servizio dovreste aver appreso che cos'è la micropropagazione con interventi criogenetici. Vediamo un po'. Pochi giorni fa si è tenuto a Legnaro, in provincia di Padova, un convegno sulla tecnica della micropropagazione per far crescere le piante in miniatura. Ecco, è una tecnica poco conosciuta al largo pubblico, ma molto nota ai botanici e agli addetti ai lavori. Sono ben 25 milioni le piantine riprodotte con questa coltura. Ecco, ci spiega tutto, anche che cosa è emerso dal convegno, Maurizio Lambardi, che è ricercatore del CNR di Sesto Fiorentino presso l'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree. Intanto buonasera Lambardi. Buonasera. Ecco, dicevamo dell'evento che si è tenuto in provincia di Padova, il tema principale su cui ruotavano gli interventi era la micropropagazione. Ecco, vogliamo innanzitutto spiegare al pubblico in che cosa consiste questa tecnica? Sì, dunque, il termine micropropagazione si riferisce alla coltura in vitro, vuol dire alla coltivazione all'interno di contenitori di vetro di specie vegetali, in una forma ovviamente miniaturizzata. All'interno di questi contenitori di vetro le condizioni di illuminazione e di temperatura sono controllate e le piantine possono vivere in queste condizioni perché sono sterili, sono in condizioni di sterilità e hanno un substrato, quello che noi chiamiamo un substrato, è una base gelificata all'interno del quale ci sono tutte quelle sostanze che servono alla pianta, quindi sali minerali, vitamine, zuccheri, sostanze ormonali. Quindi non crescono in un vero e proprio terriccio come lo immaginiamo noi? Esattamente, non crescono in un vero terriccio, ma le sostanze che noi mettiamo all'interno di questo substrato sono esattamente le stesse che la pianta va a prendere quando è in un vivaio all'interno di un contenitore. Quindi con questa concentrazione di nutrienti la pianta cresce più in fretta, quanto ci mette più o meno? cresce più in fretta, nel senso che è una forma tale anche di ringiovanimento delle piante. Le piante sono in una condizione sistematicamente giovanile, infatti non fioriscono le piante in vitro, e in questo modo, regolando le sostanze ormonali, perché questa diciamo è la parte fondamentale, siamo noi che decidiamo quante e quali sostanze ormonali dargli, è possibile far moltiplicare le piante in maniera molto veloce, molto attiva e soprattutto durante tutto l'arco dell'anno. Ecco, qual è il vantaggio dell'utilizzo di questa tecnica e non magari piantare i semini nel terreno, nelle serre? Esattamente, il vantaggio è quello, innanzitutto di poter produrre le piante durante tutto l'arco dell'anno. È ovvio che un vivaio tradizionale, quando riproduce le piante, ha dei momenti, delle particolari momenti dell'anno in cui può produrre le piante. In questo modo, siccome noi controlliamo tutte le condizioni di crescita, è possibile avere una produzione durante tutto l'arco dell'anno. Poi i numeri di produzione, le moltiplicazioni delle piante sono molto elevate, poi l'aspetto più importante, si producono piante controllate da un punto di vista genetico e sanitario, quindi di una qualità diciamo così eccellente. Dunque, al convegno lei c'era insieme a degli operatori del settore e anche a numerosi ricercatori. Ecco, ci può raccontare quali sono stati gli spunti più interessanti che sono emersi? Sì, al convegno noi abbiamo cercato proprio di riunire sia il mondo della ricerca, coloro che in Italia nei vari istituti universitari o del CNR o delle aziende regionali, del CRA, si occupano di fare ricerca in questo settore, e metterli insieme con coloro che nell'ambito del settore produttivo commerciale appunto fanno della micropagazione una fonte di reddito, sono i cosiddetti laboratori commerciali di micropagazione. In Italia, come appunto lei parlava delle produzioni, ma va detto anche che ci sono circa 20 laboratori commerciali che sì, producono in questo modo, alcuni dei quali anche molto grandi. Quindi da una parte appunto vedere quali sono le necessità anche per mantenere a un livello tecnologico elevato questi laboratori, dall'altra vedere appunto quali erano le applicazioni, quali sono le applicazioni innovative importanti della micropagazione. Quali sono? Ecco, dunque, direi che gli aspetti più interessanti della tecnica sono quelli, ad esempio, che la tecnica può essere utilizzata per produrre piante che hanno un grande interesse in questo momento per la produzione di sostanze di uso medicinale, nutrizionale, ecologico, quindi in questo sistema si possono produrre elevati quantitativi di piante che poi servono per poter estrarre queste sostanze. Poi un altro aspetto importante è la produzione di piante che hanno diciamo dei problemi in questo momento, sono a rischio, come si dice, di scomparsa o di erosione genetica. Ecco, quindi per la conservazione della biodiversità anche. Esatto, per la conservazione della biodiversità, è una tecnica che si presta molto bene all'applicazione, alla conservazione della biodiversità, perché le piccole gemme, lei si immagini, sono delle gemme microscopiche, perché le piante sono miniaturizzate, sì, che si producono in vitro, possono essere utilizzate per forme di conservazione molto innovativa, come ad esempio la crioconservazione, cioè la conservazione fatta all'interno dell'azoto liquido. Ecco, questa ce la deve spiegare. Sì, è essenzialmente è quello che già da molto tempo viene fatto con la conservazione di cellule umane o di cellule animali, e da qualche tempo anche applicato alle piante, quindi al settore vegetale, cioè consiste nel conservare queste gemme a meno 196 gradi centigradi, che è la temperatura appunto dell'azoto liquido, ovviamente vengono preparate con dei trattamenti opportunamente fatti, e poi una volta conservate, poste all'interno dei contenitori di azoto liquido, possono essere in questa forma diciamo così di quiescenza assoluta, cioè le gemme stanno lì e vivono pur avendo il metabolismo completamente arrestato, congelato, e possono essere mantenute per tempi indefiniti. Quando si vuole recuperare questo materiale si applicano delle tecniche di scongelamento, di recupero, neanche particolarmente difficoltose, con le quali poi, reintroducendo le gemme nella coltura in vitro, quindi rifacendo un altro ciclo di micropagazione, si può recuperare le piante. Questo tipo di colture possono essere fatte su tutti i tipi di pianta? o quali sono le piante che si prestano di più? Dunque, in linea teorica tutte le piante possono essere, come si dice noi tecnicamente, introdotte in vitro e micropropagate. In realtà poi alcune piante si prestano meglio, altre piante hanno maggiore difficoltà. Ad esempio nell'ambito delle specie da frutto, le specie legnose, le specie forestali, con alcune piante si riesce a lavorare in maniera più efficiente, con altre le difficoltà sono maggiori. Però in linea di principio è sempre una questione di mettere a punto una procedura per ogni specie che funzioni con quel determinato materiale. D'accordo Lambardi, io la ringrazio, se ci fossero delle novità ci tenga informati. Benissimo, ringrazio voi. Vi leggo ora il titolo di un libro, Politica della scienza, però col punto di domanda, cioè Politica della scienza, l'autore è Walter Tocci. Buonasera Tocci, è qui con noi. Grazie a voi. È deputato del Partito Democratico, quindi parlamentare, membro del Comitato della Camera dei Deputati per la valutazione dell'attività scientifica e tecnologica. Lei nasce come formazione, ha una formazione in fisica, ha fatto ricercatore per diverso tempo e dell'università e della ricerca si interessa veramente da tanti anni. Politica della scienza, Tocci, è una raccolta, no, di testi che lei ha già scritto e qui li ha messi tutti insieme. Sì, sì, fanno parte della mia esperienza parlamentare negli anni passati. Ho diffuso in una lunga mailing list di ricercatori e di professori universitari proposte su questi problemi e ricevevo poi da questa mailing list molte osservazioni, molti contributi. Insomma, da questo dibattito sono usciti questi saggi che nel libretto raccolgo insieme e si può darne anche quindi una lettura così diacronica, vedendo un po' negli anni 2000 come intorno a questa politica della ricerca si è creato un certo entusiasmo, una certa fiducia e poi anche una certa delusione. Qui arriviamo ad oggi. Io, rispetto al dibattito che senz'altro chi ci ascolta ha in qualche modo partecipato, insomma il dibattito di questi ultimi mesi, beh, qui bisogna dire che nel libro si vede come già tempo fa queste questioni erano all'ordine del giorno. Tra l'altro lei proprio come parlamentare aveva presentato anche delle modalità legislative, insomma, per esempio per quanto riguarda questa famosa valutazione della qualità dell'università. Adesso non c'è ancora, però già 4-5 anni fa insomma era stata messa all'ordine del giorno. Sì, io credo che questa sia la chiave di volta, insomma, discriminare tra il bene e il male che c'è in questo settore, separare il grano dall'olio, insomma, ecco, questo lo possiamo fare soltanto valutando, introiettando sistemi di valutazione che sono all'ordine del giorno in tutti i paesi civili. Vorrei toccare invece qualche altro punto più originale, direi, del testo, proprio in merito alle questioni della ricerca. Per esempio, lei parla di una dimensione europea della ricerca che in Italia si dovrebbe avere. Sì, io credo che sia per noi europei fatto di straordinaria importanza, perché ormai c'è una geopolitica della ricerca, c'è l'esplosione della ricerca asiatica e ovviamente c'è da sempre il colosso americano. L'Europa rischia di essere la somma di 25 politiche nazionali, mentre invece può svolgere un ruolo soltanto se concentra, almeno sulla ricerca fondamentale, gli sforzi dei singoli paesi. D'altro canto il Consiglio Europeo delle Ricerche, che è la prima esperienza che va in questa direzione, è da tutti ritenuta molto positiva. Un altro tema per il quale lei propone una visione, insomma, diversa da quella che è corrente, è il tema della fuga dei cervelli, che lei dice è uno pseudo problema. Sì, il problema è che noi non riusciamo più ad attrarre cervelli, ecco, questo ce lo dice ancora questo bando del Consiglio Europeo delle Ricerche, dove molti ricercatori italiani sono risultati vincitori, ma poi quando si è trattato di scegliere il laboratorio dove sviluppare il proprio progetto di ricerca, molti hanno scelto di abbandonare l'Italia. E finché noi non torneremo ad essere un paese attrattivo, non saremo sulla strada giusta. Cioè, quindi che i nostri ragazzi anche vadano all'estero, questo non è... Sì, certo. Lei dice, per esempio, in Inghilterra sono molti di più di quelli che vanno via dall'Italia, no? Però l'Inghilterra attira anche altri. Eh sì, questa è un'attività globalizzata, quindi che i nostri vadano in giro è positivo, anzi significa anche che sono bravi, insomma, come molti ci dicono, insomma, anche dei ricercatori europei. Il problema è che il sistema Italia non attrae, questa è la questione sulla quale dovremmo concentrare i nostri sforzi, le nostre riflessioni. Alcune pagine del libro, Tocci, sono dedicate al problema della normativa, della burocrazia. In particolare lei descrive il problema del CNR e fa un esempio completamente diverso, che è quello dell'analogo ente spagnolo. Sì, negli ultimi 15-20 anni la ricerca italiana è stata sommersa da un'alluvione normativa. Ogni anno si riscrivono le leggi sui concorsi, sugli enti di ricerca. Questo non ha portato nessun risultato. Io credo che invece bisogna smantellare questo apparato normativo e stabilire la regola aurea della valutazione. Si diano finanziamenti ai laboratori, ai dipartimenti migliori, quelli che raggiungono buoni risultati internazionali nella ricerca e nella qualità della didattica. Grazie Walter Tocci, ricordo allora il libro Politica della Scienza, che tra l'altro lei presenterà all'Università Bicocca di Milano giovedì 18. Grazie. Grazie Tocci e buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi ricordate la domanda del nostro quiz? È possibile, pedalando su una bicicletta, alimentare il funzionamento di un computer? Siamo alla risposta. Come si misura la potenza degli elettrodomestici? La misura sono i watt. Come si misura invece la potenza che può generare una macchina? In cavalli. E in questo caso dobbiamo considerare il nostro corpo come una macchina, perché poi lo è di fatto. Un cavallo sono circa 750 watt. Un televisore ne consuma circa 230 di watt. Se si fanno i conti, si ricava che un uomo pedalando per una mezz'ora a ritmo molto sostenuto, però una persona normale, quindi non un ciclista professionista, un televisore riesce a farlo andare, però poi si finisce stremati e molto probabilmente pure svenuti. Un computer da tavolo consuma come un televisore circa, e allora non ci siamo. Un computer da tavolo non si può alimentare pedalando. Le cose invece vanno molto meglio con i computer portatili, il cui consumo è di circa 15 watt. In questo caso, con una pedalata normale, si può farlo andare anche per 2-3 ore. La cosa più interessante, però, credo, sarebbe poterlo ricaricare. Allora, la risposta giusta è questa. Pedalando si possono alimentare solo i portatili. C'è un nuovo direttore, commissario si definisce per l'esattezza, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Si chiama Enrico Saggese, lo ha intervistato Maurizio Melis per capire, soprattutto in questo scenario economico tutt'altro, come dire, che spaziale, cosa sarà possibile combinare lassù fra le stelle. Si è conclusa da pochi giorni all'AIA la ministeriale dell'ESA, la riunione al vertice dei ministri competenti in materia di spazio che si tiene ogni 3 anni e decide strategie e finanziamenti delle attività future dell'Agenzia Spaziale Europea. Per l'Italia poi è anche un momento particolare, perché inizia il turno di presidenza italiana dell'ESA e perché è anche in corso un cambio di guardia ai vertici dell'Agenzia Spaziale Italiana, che dell'ESA è uno dei principali finanziatori. Cosa cambia? Ci domandiamo noi di Mebius e probabilmente anche tutti gli appassionati di spazio. Lo chiediamo a Enrico Saggese, che è stato nominato commissario dell'ASI dall'attuale governo Berlusconi, in attesa che venga definito il consiglio di amministrazione definitivo. Saggese è in linea con noi. Buonasera Saggese. Buonasera. Dunque Saggese, ecco, primo elemento che è emerso da questa importante riunione è un cambio di rotta abbastanza deciso, che potremmo riassumere dicendo: più robot e meno uomini nello spazio. Intanto le chiedo il perché di questa scelta. Ma diciamo che è una presa d'atto di una situazione internazionale che è quella di una ancora non completa decisione dal leader principale del volo umano e dell'esplorazione umana, che sono gli Stati Uniti, e che ancora non hanno completamente deciso la loro strategia, cioè se andare sulla Luna, se andare sulla Luna per andare su Marte o se andare direttamente a Marte. Mm-hmm. È chiaro che l'obiettivo che abbiamo oramai da 15 anni, che conserveremo nei prossimi decenni, è quello di sfruttare appieno la Stazione Spaziale Internazionale. Sì. È altresì chiaro che le risorse proprio a livello mondiale necessarie per andare sulla Luna, 50 o 100 miliardi di dollari, o su Marte, 500 miliardi di dollari, non sono ancora state decise e forse in questo frangente economico mondiale non saranno decise a breve termine. Non è prudente parlare di queste cifre, anche perché poi comunque le stesse missioni su Marte prevedono tutte sostanzialmente una fase precedente di missioni robotiche che saranno a preparare la missione umana. Esattamente, diciamo che la missione robotica su cui stiamo lavorando attualmente, che si chiama ExoMars, mm-hmm. è una missione che abbiamo deciso sia una missione europea, sì, ma anche mondiale. Mm. Europea nel senso che il satellite che manderemo su Marte per scendere su Marte con un laboratorio e fare test su Marte sarà europeo, ma sfrutterà capacità della NASA nelle comunicazioni e capacità russe nel sistema di lancio. Questo anche per tenere sotto controllo i costi, se non sbaglio. Sì, l'obiettivo che noi abbiamo è esattamente questo. Gli scienziati sono degli ottimisti spesso nei costi, perché vedono le loro prospettive di tipo scientifico come cose importanti e i costi chiaramente... Comprensibilmente. L'obiettivo adesso è di mantenere i costi europei sotto il miliardo di euro. Ecco, senta, abbiamo parlato di ExoMars. Quali sono le altre missioni robotiche che si affacciano da qui ai prossimi anni? Ma diciamo che quella principale sarà quella poi di non avere il laboratorio su Marte, ma di sfruttare il laboratorio sulla Terra e quindi il Mars Sample Return, cioè una missione che vada su Marte, prende dei campioni e le riporti sulla Terra. Certo. La missione sarà di nuovo fatta con la NASA e quindi abbiamo definito il possibile bilancio per una missione di collaborazione, che può essere l'inizio della collaborazione per il volo umano di cui abbiamo parlato prima. Vi è poi la scienza, e sulla scienza vi saranno diverse missioni, che si sta definendo quella di Baby Colombo su Mercurio, in cui abbiamo deciso come Europa di aumentare il budget della scienza del 3,5% per anno, per ciascun anno del prossimo quinquennio. Copernicus? Copernicus è uno dei programmi principali. Copernicus, come lei sa, è l'acronimo che è stato dato dall'Unione Europea a quello che prima si chiamava Global Monitoring for Environment and Security, che è un sistema di almeno 10 satelliti per osservare la Terra, il mare, l'atmosfera e dare anche delle informazioni sulla sicurezza degli abitanti dell'Europa. E questo sistema è stato finanziato anch'esso per circa 1 miliardo di euro e sarà uno dei due programmi chiave dell'Unione Europea per fare infrastrutture europee. L'altro, come sapete, è quello di Galileo per la navigazione. Certo. I due sistemi coopereranno per dare all'Europa delle infrastrutture spaziali che saranno le prime infrastrutture europee. Che tipo di conoscenze acquisiremo? Su quali reparti tecnologici andremo presumibilmente ad acquisire conoscenze nei prossimi anni durante lo svolgimento di queste missioni? Per esempio, se come sembra il controllo della missione del rover su Marte verrà posizionato a Torino, lì certamente nel campo del controllo remoto ci saranno dei benefici, delle acquisizioni di conoscenze importanti in questo settore. Cos'altro ci possiamo aspettare? Ma sì, mi faccio ripetere il discorso del rover, che l'Altec, che è una società partecipata all'Agenzia Spaziale Italiana, avrà l'obiettivo di controllare il rover nel suo movimento su Marte. Ma abbiamo anche degli altri obiettivi, che sono quelli di fornire servizi con i dati che vengono presi da Copernicus, e dobbiamo integrare questi dati con quelli delle costellazioni nazionali, prima fra tutte Cosmos SkyMed, e poi le costellazioni che stiamo costruendo con l'aiuto degli argentini con radar in banda L. Parliamo di costellazioni di satelliti, lo chiariamo ai nostri ascoltatori, quindi gruppi di satelliti che volano informazioni intorno alla Terra. Sì, con un passaggio sulle zone di nostro interesse una volta ogni 6 ore per i radar ad apertura sintetica in banda X e un pochettino più radi, diciamo una volta ogni 12 ore per i radar in banda L che facciamo con l'Argentina. Temo che non sia chiaro all'ascoltatore cosa siano queste bande, non è chiaro neanche a me. Certo, allora diciamo che i radar, quelli che ho definito in banda L, sono radar che vanno a riconoscere la umidità e la pioggia in qualche modo, l'umidità del terreno, e invece i radar in banda X riconoscono strutture metalliche e movimenti di strutture metalliche sulla superficie terrestre. Quindi serve una combinazione di occhi, come dire, che guardano frequenze diverse per riuscire a cogliere aspetti diversi. Corretto, sapere per esempio se un fiume sta in piena o sapere se un ponte si sposta di un millimetro all'anno. Va bene, grazie mille Saggese. La ringrazio. James Gray, zoologo inglese del secolo scorso, nel 1936 segnalò alla ricerca un paradosso. Lui calcolò con molta precisione che un delfino riesce a raggiungere una velocità di 20 miglia orarie. Sono veramente tante. Ma la contraddizione che allora emerse, sempre dagli studi Gray ma anche da quelli di altri colleghi, è che la struttura muscolare del delfino non consentirebbe questa velocità. Negli studi sugli animali la relazione fra apparato muscolare, forma del corpo e potenza esprimibile nel movimento sono studi molto precisi. In tutti questi anni il problema però non ha trovato una soluzione ed è per questo che in biologia marina si parla di paradosso di Gray. Ma oggi una soluzione sembra che sia arrivata. Proviene dal Rensselaer Polytechnic negli Stati Uniti, nello stato di New York, ed è come soluzione più semplice di quanto si pensasse, perché il problema da risolvere non stava nel dover scoprire quale particolare nascosta abilità i delfini siano capaci di mettere in campo per andare tanto veloci. No, il problema era avere una tecnologia di rilevamento che fino ad oggi non era disponibile. I ricercatori hanno costruito un sistema di misura che combina degli strumenti di misurazione delle forze fluidodinamiche normalmente utilizzati, questi strumenti, nella ricerca aerospaziale, combinati, come vi dicevo, con delle apparecchiature di ripresa video digitale in grado di filmare a 1000 fotogrammi al secondo. Due delfini sono stati quindi utilizzati per gli esperimenti, li hanno chiamati Primo e Puka. I due animali sono stati filmati più volte mentre viaggiavano ad alte velocità in acqua, ma sono anche stati avvolti da un flusso di bollicine d'aria, miliardi di bollicine, prodotte costantemente da una macchina. Dei potenti computer hanno poi analizzato i filmati e in particolare hanno monitorato il flusso delle bollicine. Questo è un modo indiretto di calcolare la potenza di un mezzo in movimento in acqua. A seconda di come si sposta il fluido si riesce a capire quanta potenza eroga il mezzo. Ebbene, in questo modo si è ricavato, come vi dicevo prima, che i delfini sono più forti di quanto si è pensato finora. Ecco perché quindi vanno così veloci. Finisce qui Möbius di questa settimana. La prossima sarà la puntata di Natale ed è giusto definirla così perché andrà in onda in replica anche il giorno di Natale alle 18. Una puntata nella quale vi parleremo di menù molecolare natalizio. Sulla cucina molecolare trovate tante cose sul nostro sito. Vi parleremo di coperte che conservano il ghiaccio, di una spedizione che è appena partita e che attraverserà tutte le regioni del nord Europa, il nord assoluto, lungo i confini dei mari polari, per ricordare un'analoga missione che fece 100 anni fa Amundsen, l'esploratore Amundsen. Ma anche vi parleremo di relazioni fra i Bob, quelli che scivolano sulle piste ghiacciate, e la Ferrari. Infine vi racconteremo del Chiurlottello. Che cos'è? No, mi dispiace, dovete ascoltarci la prossima settimana. E adesso buona serata a tutti e tutte.